Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una nuova poesia del poeta Luca Giambonino, dal titolo Timida Primavera. Questa primavera nostra assai tarda a far capolino, sembra sia timida, tanto che non vuol disturbare, e così lascia spazio al freddo, al vento e alla pioggia. Vinci la tua timidezza, stagione amata, e mostrati in tutto lo splendore tuo. All'alba tiro su le persiane, e la mia speranza è quella di veder sorgere uno splendido sole. Stagione pensierosa, quest'anno tarda a farsi vedere, ma, come si suol dire, non perdo la speranza di indossare abiti più giusti, finalmente primaverili.